Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Abbiamo scelto un livello di attenzione che in questo momento è davvero il più alto in Europa e ci sono tutte le condizioni, ora anche con l'ultima scelta che abbiamo fatto del commissario per l'emergenza, per poter monitorare e seguire la situazione nella massima serenità. Massima serenità, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo dice il ministro della Salute Speranza a proposito dell'allarme internazionale che riguarda anche l'Italia legato al coronavirus. Così ha detto anche il presidente del Consiglio Conte: la situazione è assolutamente sotto controllo in Italia, le nostre sono le misure più elevate in Europa. Insomma, l'abbiamo anche ripetuto, ribadito in questi giorni, detto da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sapete che ci sono appunto questi due casi accertati da ieri sera, una coppia di cinesi, e poi lo stato di emergenza che è stato dichiarato dal governo, dal presidente del Consiglio Conte. Ce ne occuperemo naturalmente, ci addentreremo dentro questo che è il tema dei temi in questi giorni con un esperto anche di modelli matematici di previsione delle epidemie e in particolare con il presidente del Dipartimento delle Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi se avete delle domande, dei dubbi, delle ansie, scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Poi sapete che a mezzanotte c'è l'addio. L'Unione Europea dice addio a Londra e viceversa, Londra dice addio all'Unione Europea, con manifestazioni nelle piazze piuttosto contrapposte. Ovviamente il venerdì, ultimo giorno della settimana di Effetto Notte, e sentiremo dal nostro meteorologo di fiducia quali sono le condizioni climatiche che ci aspettano, visto che questi dovranno essere i giorni più freddi dell'anno. Vi dico che a Milano oggi c'erano 13 gradi e mezzo. Coronavirus, l'Italia è in stato d'emergenza per il rischio sanitario, ma gli esperti e il governo rassicurano: è tutto sotto controllo. La coppia di turisti cinesi sta meglio, ora in 12 sono allo Spallanzani per i test di verifica, mentre la Cina ammette i suoi ritardi. La strage delle donne per mano maschile, 5 femminicidi in Italia in poche ore, l'allarme del procuratore generale della Cassazione sulle tante donne uccise dai compagni e anche sulla prescrizione. Economia italiana arriva una frenata, l'OCSE invita alla riforma del mercato dei capitali. Brexit è il D-Day, a mezzanotte la Gran Bretagna dice addio all'Unione Europea, a Londra manifestazioni contrapposte. Calciomercato stasera si chiude. Partiamo quindi dall'allarme internazionale sul coronavirus, che ha superato la SARS per numero di contagi. L'ultimo dato ufficiale rileva 9.836 casi confermati di contagio e 213 morti. In Italia due casi positivi al test, ricoverati allo Spallanzani di Roma, che ha in osservazione altri 12 pazienti. Sono in discrete condizioni due pazienti cinesi colpiti da coronavirus e ricoverati allo Spallanzani di Roma, dove sono ricoverati e sono stati sottoposti ai test anche 12 pazienti provenienti dalla Cina che presentano sintomi modesti. A fare il punto in conferenza stampa Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani, centro di riferimento nazionale per le bioemergenze. Il centro europeo per il controllo delle malattie che ci aiuta e che proprio oggi ha reso pubbliche le nuove stime di trasmissione, confermando che è verosimile che le persone siano fonte di trasmissione solo nel momento in cui hanno i sintomi e che se le persone con infezione vengono rapidamente identificate il rischio va da basso a molto basso. Quindi dobbiamo considerare che le parole hanno un senso, da basso a molto basso. I casi in Europa al momento sono 16 e c'è un primo bambino contagiato dal coronavirus in Germania. Molti paesi prendono via via decisioni restrittive, ma la Cina attacca duramente gli Stati Uniti per l'invito ai suoi connazionali a evitare il paese alle prese con l'epidemia o a lasciarlo quanto prima. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'Italia, dicevamo, in stato d'emergenza per il rischio sanitario connesso al coronavirus, lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri, che ha stanziato 5 milioni di euro. Il provvedimento durerà 6 mesi, poi cercheremo di capire anche in cosa consista questa emergenza a livello nazionale, che sarà gestita da un commissario straordinario come avvenne per la SARS. Lunedì rientreranno 70 degli 80 italiani a Wuhan, stop ai voli intanto da e per la Cina e poi controlli rafforzati nei porti che restano aperti. Tra poco ci torniamo, vi dicevo, col direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e con un esperto di modelli matematici di previsione delle epidemie. Ma il coronavirus contagia anche la politica, con l'opposizione all'attacco. Il coronavirus non solo alimenta le tensioni tra maggioranza e opposizione. Matteo Salvini parte all'attacco. Qualcuno del governo ha perso tempo o ha sottovalutato quanto stava accadendo. Non è una questione personale, però evidentemente se ancora ieri in Parlamento qualcuno è venuto a dirci che la situazione era sotto controllo e poi dichiarano lo stato di emergenza la mattina dopo, o non sanno o non capiscono. Ma al leader della Lega risponde il PD che Squallore è un poveraccio. Intanto Salvini continua sui dati del PIL, i peggiori degli ultimi 7 anni, e si chiede chi avvisa Conte. Anche sul referendum, se passa il taglio dei parlamentari, dice il leader della Lega, il Parlamento sarà ulteriormente delegittimato. Non è immaginabile che possa eleggere il Presidente della Repubblica. Nella maggioranza intanto verifica rimandata per il coronavirus, mentre il Movimento 5 Stelle espelle 6 parlamentari a seguito dell'istruttoria sui ritardi sulle rendicontazioni dei probiviri. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'economia italiana che è infrenata nel rapporto preliminare. L'economia italiana entra nel 2020 con una brusca frenata. A certificarlo i dati preliminari dell'Istat, che registrano una flessione dello 0,3% nel quarto trimestre 2019, il calo più forte dal 2013, che ha interrotto, si legge nella nota dell'Istituto, la debole tendenza positiva dello scorso anno. Ottimista tuttavia il ministro dell'economia Gualtieri. Prevediamo un rimbalzo per il T1 del 2020 di crescita. Il dato si consolida peraltro sul 2019 sul 0,2. Siamo ancora più determinati a lavorare per implementare una stazione di sostegno alla crescita degli investimenti con la manovra di bilancio. L'altra fotografia del giorno arriva dall'OCSE, che ha messo a fuoco un mercato dei capitali italiano ancora gracile, incapace di attrarre grandi flussi stranieri e di arrestare la fuga di risparmio nostrano oltre confine. Una fragilità strutturale che il segretario generale Angel Gurria sintetizza così. Nelle ultime 10 anni, in media, meno di 4 società all'anno sono state quotate. Inoltre, la capitalizzazione di mercato italiano in percentuale dal PIL rimane ben al di sotto di quelle degli altri paesi europei. Regole certe e potenziamento della Consob, le ricette principali indicate nel rapporto OCSE per facilitare l'accesso delle aziende, sia pubbliche che private, al capitale di lungo termine. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E bisogna purtroppo aggiornare sulla strage delle donne, continua per mano maschile. 5 femminicidi in Italia in poche ore. Le donne uccise in Italia sono state 131 nel 2017, 135 nel 2018, 103 nel 2019, e aumenta il dato percentuale rispetto agli omicidi di uomini in maniera davvero impressionante, l'ha detto il procuratore generale Salvi nel suo intervento all'anno giudiziario, che poi sentiremo. Intanto 5 donne sono state uccise solo negli ultimi 3 giorni. Di un'altra oggi è stato ritrovato il cadavere. Sono 11 le donne uccise nel 2020. Nel macabro elenco che vede 5 di loro morire solo negli ultimi 3 giorni appare anche il nome di Speranza Ponti, 50 anni, sarda, che in realtà ha perso la vita nel dicembre scorso. Il suo corpo è stato ritrovato però nelle ultime ore ad Alghero, nell'area indicata da quello che era il suo compagno, Massimiliano Farci, 53 anni. Non l'ha uccisa, si è suicidata, io ho solo occultato il cadavere, sostiene l'uomo, che è in stato di fermo. Si è invece tolto la vita Michele Noto, 27 anni, dopo aver stroncato quella della compagna che voleva lasciarlo, Rosalia Mifsud, 48enne, e quella della figlia di lei, Monica Di Liberto, 27 anni, che quella relazione tra la mamma e un uomo molto più giovane non approvava. È successo a Mussomeli, in Sicilia, dove purtroppo si è registrato un altro femminicidio, quello di Rosalia Garofalo, 52 anni, ha subito 3 giorni di botte prima di morire. L'assassino è il marito, Vincenzo Frasiglio, di 53, denunciato per violenza più volte in passato dalla moglie. Agli inquirenti non ha trovato altro che dire: l'ho uccisa perché mi tradiva. Ed era incinta la donna di origini pakistane, trovata morta in casa in provincia di Bolzano, all'apparenza per asfissia. Il compagno, un connazionale 38enne, è in stato di fermo dopo essere rimasto in silenzio davanti agli inquirenti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il quinto femminicidio si è aggiunto, veramente una cosa terribile, nel pomeriggio a Genova, nel quartiere di Marassi. Una donna è stata uccisa da un uomo che dai primi riscontri sarebbe l'ex marito. L'uomo ha poi tentato il suicidio. La donna si trovava in un appartamento in cui lavorava come colf, e a trovarla morta accanto a un uomo ferito è stato il datore di lavoro. E c'è l'allarme del procuratore generale della Cassazione appunto sulle tante donne uccise dai compagni. Sentiamo. L'Italia vede dunque un numero di omicidi in rapporto alla popolazione inferiore alla media europea e tra i più bassi del mondo. In questo contesto positivo è ancora più drammatico il fatto che permangono pressoché stabili, pur se anch'essi in diminuzione, gli assassini di donne, consumati nel contesto di relazioni affettive o domestiche. Le donne uccise sono state 131 nel 2017, 135 nel 2018 e 103 nel 2019. Aumenta di conseguenza il dato percentuale rispetto agli omicidi in danno di uomini in maniera davvero impressionante. E poi, sempre per quanto riguarda l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Cassazione, prescrizione migranti tra i temi al centro dell'apertura dell'anno giudiziario. Si prospetta un incremento del carico del lavoro della Corte di Cassazione di circa 20-25 mila processi per anno. Servono correttivi alla riforma della prescrizione, chiede di fatto il primo presidente della Suprema Corte, Giovanni Mammone, altrimenti, spiega, si rischia di minare l'efficienza del settore penale della Cassazione. Ufficio questo, aggiunge Mammone, già gravato per il nodo migranti dalle impugnazioni in materia di protezione internazionale, prima diluite tra le corti di appello ed ora affluite tutte in Cassazione. Intervento legato all'attualità anche quello del procuratore generale Giovanni Salvi. L'Italia vede dunque un numero di omicidi inferiore alla media europea e tra i più bassi del mondo. In questo contesto positivo è ancora più drammatico il fatto che permangono pressoché stabili, pur se anch'essi in diminuzione, gli assassini di donne. Sulla prescrizione quindi la replica del ministro della giustizia Bonafede. È in atto un confronto serrato, leale, all'interno della maggioranza, per superare le divergenze e consegnare ai cittadini un processo idoneo a rispondere alle loro istanze di giustizia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora le notizie dall'estero. Dallo scoccare della mezzanotte di oggi il Regno Unito non farà più parte dell'Unione Europea. L'alba di una nuova era, dice il primo ministro Johnson, che farà un discorso alla nazione. Alle ore dovrebbe essere 22 ore italiana. È un giorno emotivo, dice, ci vuole unità, trasparenza, rispetto, il nostro lavoro va avanti, afferma il capo negoziatore dell'Unione Europea Barnier. L'euro resta il cuore del comune progetto dell'Europa, sottolinea invece il presidente, dice Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea. E a Londra sono in corso manifestazioni contrapposte tra tutti coloro che sono felici di questo addio e invece i nostalgici dell'Unione Europea. Airbus ha accettato di pagare una multa totale di 3,6 miliardi di euro alla Francia, alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti per archiviare le inchieste per corruzione di cui è oggetto il colosso dell'aeronautica europea. Secondo i dettagli dell'accordo svelato oggi a Parigi, Airbus sborserà 2,1 miliardi di euro alla Francia, 984 milioni di euro alla Gran Bretagna, 526 milioni di euro agli Stati Uniti. Le inchieste riguardavano in particolare irregolarità sui contratti di vendita degli aerei. Di nuovo in Italia hanno continuato a controllare ogni mossa, parliamo della Banca Popolare di Bari, anche dopo aver lasciato le cariche. Sono stati arrestati quindi l'ex presidente e l'ex condirettore della Popolare di Bari, un crack di cui devono rispondere con le accuse di falso in bilancio e ostacolo agli organi di vigilanza. Altri 9 gli indagati, ecco cosa emerge dall'ordinanza del GIP di Bari. È il tramonto di chi per mezzo secolo ha gestito il più grande istituto del Mezzogiorno, precipitato in un crack da 2 miliardi. È il tramonto di Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente ed ex numero 2 della Popolare di Bari, ora ai domiciliari per aver tra l'altro nascosto profitti illeciti per 5,6 milioni. Il GIP lo scrive chiaramente, padre e figlio, che hanno governato la banca solo con lo sguardo, per dirla con un ex manager, hanno continuato ad averne il controllo di fatto. Quando aveva temuto di perdere la leadership, Marco Jacobini aveva chiamato il capo della vigilanza di Banca Italia. Quella leadership, infatti, gli permetteva di ricevere 3 milioni anche a fronte del dissesto dell'istituto, i cui bilanci non rispondevano a logiche di correttezza ma a piaggeria, ammette un ex manager indagato. Si contestano anche le omissioni sui rischi per la vendita di azioni Tercas, acquisizione cruciale nella parabola di quell'era che ora volge al tramonto e trascina con sé anche un nome noto della finanza, Vincenzo De Bustis, è stato interdetto dalle funzioni bancarie. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Occupiamoci adesso di scuola. Chiudono questa sera le iscrizioni, licei sempre in crescita, anche ancora in calo i professionali. Più di un ragazzo su due ha scelto un liceo, poco più dello scorso anno. Un ragazzo su tre si è iscritto invece ad un istituto tecnico, anche in questo caso leggermente in aumento rispetto all'anno scorso. Giù i professionali, scelti da solo un tredicenne su otto. E quest'ultima non è una buona notizia in un paese in cui le aziende cercano disperatamente figure professionali legate al turismo, alla ristorazione, all'enogastronomia, solo per citare qualche settore. Leggendo meglio i dati si scopre poi che aumenta l'interesse per il liceo scientifico, il liceo artistico e il liceo delle scienze umane, stabile il classico, in calo il linguistico. Il Lazio si conferma ancora la regione con il maggior numero di iscritti agli indirizzi liceali, quasi il 70%. Il Veneto invece è la regione dove piacciono di più gli istituti tecnici, quasi il 40%. La più alta percentuale di iscritti al professionale è invece in Emilia-Romagna, 15%. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'elicottero in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia Giovanna Maria e altre sette persone non poteva volare in condizioni di scarsa visibilità. Lo riferiscono tre fonti vicine alle operazioni della Island Express Helicopters, proprietaria della Sikorsky Sky S76B. L'azienda è certificata solo per operare secondo le regole del volo visivo, con almeno 3 miglia di visibilità e un tetto di nuvole non inferiore ai 1000 piedi dal suolo. La compagnia invece non aveva la certificazione per il volo strumentale. Per chiudere, sono chiuse da circa un'oretta le trattative del calciomercato. Ce ne occuperemo nel corso di questa puntata. Intanto, prima di lasciare la linea agli aggiornamenti per chi si sta muovendo, Francesco da Verona dice: quelli che massacrano di botte le proprie donne e le uccidono invece di chiamarli compagni o mariti o fidanzati, sarebbe più giusto definirli infami assassini. Questo sono infami assassini, caro Francesco. Bisogna solo appunto sottolineare che avevano questo legame con le donne che hanno ucciso, che è quindi un aggravante, una cosa intollerabile, e che però continua in qualche modo così a procedere nell'indifferenza generale, come fosse così una questione fisiologica. 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, dove vedo già qualche domanda sul coronavirus. Su questo ci aggiorniamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti, come sempre, ve le ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, mentre vi ricordo anche che per i vostri commenti c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure commenti, riflessioni, domande le potete inviare tramite SMS o WhatsApp al 349-238-6666. Questi sono i fatti principali. Il coronavirus ovviamente sempre al centro di tutte le notizie. L'Italia è in stato d'emergenza per il rischio sanitario, ma gli esperti e il governo rassicurano: è tutto sotto controllo. La coppia di turisti cinesi sta meglio, ora sono poco fa in 12, adesso vedo aggiornamenti in 32 allo Spallanzani di Roma per i test di verifica, mentre la Cina ammette i suoi ritardi. E poi il fenomeno terribile che prosegue appunto nell'indifferenza generale, la strage delle donne per mano maschile, 5 i femminicidi in Italia in poche ore, anche l'allarme del procuratore generale della Cassazione sulle tante donne uccise dai compagni, e poi l'allarme anche sulla prescrizione. Economia italiana arriva una frenata, l'OCSE invita alla riforma del mercato dei capitali. Poi Brexit, l'appuntamento, questo è il D-Day a mezzanotte di oggi, la Gran Bretagna dice addio all'Unione Europea, e a Londra ci sono manifestazioni di coloro che sono felicissimi di questo addio e invece i nostalgici già dell'Unione Europea. E poi parleremo anche di calciomercato. Ovviamente l'argomento che è in cima a tutti gli altri a livello internazionale e naturalmente anche in Italia è l'allarme causato dal coronavirus. Per quanto ci riguarda, specie da ieri sera, con la certificazione di due casi, di due persone contagiate che sono una coppia di turisti cinesi, e poi la dichiarazione da parte di Conte, del Presidente del Consiglio, dello stato di emergenza sanitaria per 6 mesi. Sentiamo Conte in quell'audio introduttivo che dice: è tutto sotto controllo. Conte. Abbiamo fatto poi questa riunione per avere, come dire, il coinvolgimento di tutte le autorità, di tutte le componenti interessate. È stata una riunione operativa. Confermiamo, la situazione è sotto controllo. Il paese Italia e il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione, di precauzione, con la soglia più elevata in Europa, e quindi siamo assolutamente fiduciosi che la situazione proseguirà e terremo sotto controllo i due casi che abbiamo già accertato. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 5 milioni di euro per questa emergenza a livello nazionale, che sarà gestita appunto da un commissario straordinario, come avvenne per la SARS. Anche su questo sentiamo Conte a proposito del commissario straordinario. Oggi si è riunito il Comitato della Protezione Civile. Abbiamo appena avuto una riunione qui al Comitato Operativo della Protezione Civile. Il ministro Speranza ha proposto come commissario delegato per questa emergenza la persona del dottor Borrelli, che come sapete è anche il capo della Protezione Civile. Abbiamo quindi approvato questa designazione, abbiamo anche adesso il commissario delegato. E per ragguagliarvi un po' prima di parlare con gli ospiti, per quanto riguarda gli 80 italiani a Wuhan, tra cui il manager modenese che abbiamo sentito in questi giorni qui a Effetto Notte, rientreranno in 70 lunedì, l'ha detto oggi il ministro degli esteri Di Maio. Poi stop ai voli DAI per la Cina, ci saranno controlli rafforzati nei porti che restano aperti. E poi questa missione da parte della Cina, il segretario del Partito Comunista Cinese ha ammesso che i ritardi nelle misure di controllo e evidentemente nelle informazioni hanno peggiorato lo stato dell'epidemia. In Cina il bilancio al momento è di 213 morti e 9.700 contagiati. La Cina nel frattempo attacca duramente gli Stati Uniti per l'allerta ai suoi connazionali degli Stati Uniti, che dicono di evitare la Cina. E intanto il presidente russo Putin scrive al presidente cinese dicendo, offrendo la collaborazione della Russia. In Europa individuati due contagiati in Russia, altri due casi confermati in Gran Bretagna e c'è il primo bambino contagiato in Germania, dove i casi sono 6. E intanto il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo chiede di alzare il livello di allerta sul coronavirus nei punti di ingresso in Europa. E subito coinvolgo il professor Giovanni Rezza, che è direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera professor Rezza. Buonasera, salve. Grazie della disponibilità, so che la tirano a destra e a manca. E poi saluto Andrea Pugliese, che sentiremo però dopo, che è professore ordinario di analisi matematica all'Università di Trento e elabora modelli matematici sulla diffusione delle epidemie. Buonasera Pugliese. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, professor Rezza, intanto questa ammissione, ci spiega anzi prima di tutto in cosa consiste l'emergenza sanitaria nazionale che durerà 6 mesi, come ha detto Conte? Ma credo che sia una conseguenza un po' dell'allerta globale lanciata dall'OMS. Serve soprattutto a migliorare le azioni di coordinamento fra il Ministero della Salute e Protezione Civile, anche a stanziare dei fondi, perché dopo servono anche dei fondi per combattere le malattie e per reagire nei confronti di una minaccia epidemica. Però le persone continuano naturalmente a comportarsi in modo normale, no? Anche se c'è questa emergenza nazionale, giusto professor Rezza? Sì, assolutamente sì, perché voglio dire, fino adesso noi abbiamo avuto questi due casi, che sono due casi importati, nel senso due persone che hanno acquisito l'infezione nell'epicentro, cioè l'epicentro dell'epidemia in Cina, e sono venute in Italia, quindi non abbiamo alcuna trasmissione, diciamo, da persona a persona locale. Naturalmente noi non possiamo mai escludere che ciò avvenga, seppure in maniera limitata, come in Germania per esempio, dove una persona che veniva sempre da una zona colpita dall'epidemia dopo ha contagiato tre o quattro persone. Però l'importante è identificare prontamente queste prime catene di trasmissione e impedire che succeda quello che è successo realmente in Cina. Ma noi adesso siamo avvisati, no? Mentre è vero che ci sono stati dei ritardi. Dei ritardi, no? Perché si lodava il senso di responsabilità e la trasparenza della Cina in questi giorni, però anche questo è un segnale di trasparenza, il fatto di aver ammesso i ritardi. Si sono, diciamo, sì, un po', hanno rimediato così. Un po' di scariche. Probabilmente quello di cui si parla oggi come ritardo, intanto è un ritardo nell'identificazione dei primi casi dell'epidemia, per carità, non è facilissimo, perché ci troviamo di fronte ad una sindrome, una malattia che in qualche modo ricorda un po' la SARS, ma ricorda pure un po' l'influenza, nel senso che i casi più gravi sono una minoranza, i casi lievi sono molti, anche se sono molti quelli che hanno una polmonite, però in molti casi questa polmonite non è una polmonite grave. Quindi all'inizio si può anche ammettere che ci sia un ritardo nell'identificazione. Dopodiché c'è un problema, evidentemente c'è stato un problema a livello locale e di ammissione possibile di questa situazione, ma anche la Cina è un paese abbastanza verticistico, per cui prima che la provincia di Dubai trasmettesse l'informazione al centro, diciamo a Pechino, probabilmente è passato il tempo, e questo è quello che si pensa, quindi qualche ritardo potrebbe esserci stato. E sa, quando c'è un ritardo e non si sa che c'è un virus che sta circolando, chiaramente il virus circola più rapidamente, è un virus che probabilmente ha una capacità infettante abbastanza elevata di diffondersi. Se là, insomma, si parla con due volte una persona malata posso infettare in media circa due in assenza di intervento. Professor Rezza, forse ha già risposto in qualche modo a questa domanda che fa un ascoltatore dicendo: ma è tanto più pericoloso il coronavirus di un'influenza normale? E evidentemente sì, no? Altrimenti non ci sarebbe tutta questa allerta. Dati di letalità, che noi diciamo mortalità, noi usiamo il tasso di letalità, che è il numero di morti sui malati, attuali sono molto preliminari, perché dicono sì, circa il 2-3% delle persone che vengono diagnosticate in ospedale muoiono, che qualcuno dice poco, qualcuno dice tanto. Di fatto sono dati incompleti che possono sottostimare la realtà, perché non abbiamo un follow up completo di questi pazienti, ma allo stesso tempo potrebbero sovrastimare questi dati, il tasso di letalità, semplicemente perché tutti quelli che vanno in ospedale sono in genere più i casi più gravi, quelli che vanno in ospedale. A proposito del quindi contagio, i casi sono molto di più, sono lievi, il tasso di letalità dovrebbe essere decisamente più basso. Più basso. Professore, fra l'altro non è chiara questa questione, a molti vedo varie domande sulla questione dei sintomi, a parte sentire i sintomi, ma è stato detto che il contagio tra due persone può avvenire solo se quella che già infetta comincia già a sentire i sintomi, cioè quando l'incubazione è oltre e comincia a dare appunto dei segnali, solo in quel caso ma può contagiare. Non dobbiamo essere mai troppo dogmatici, nel senso che c'è un lavoro su New England di oggi che mostra che una persona senza sintomi asintomatici avrebbe infettato almeno un'altra persona o delle persone con cui è stato stretto contatto. Allora, con le malattie infettive questo succede, succede che a volte una persona senza sintomi possa senza sintomi non vuol dire un portatore sano in questo caso, significa che manifesterà i sintomi fra un giorno o due, possa essere infettante o contagiare qualcuno, ma questi sono casi estremamente ridotti, estremamente limitati, perché se questo è un virus che provoca tosse, c'è un motivo per cui provoca la tosse, è perché la tosse favorisce la diffusione del virus, favorisce il contagio, quindi evoluzionisticamente questo virus provoca questi sintomi proprio perché sono sintomi che favoriscono la sua diffusione, quindi la sua sopravvivenza, anche perché passa da una persona all'altra. Quindi io direi non possiamo escludere del tutto che una persona che sta verso la fine del periodo di incubazione possa essere contagiosa, ma questo gioca un ruolo piccolissimo nella trasmissione generale, perché è chiaro che la tosse, il meccanismo della tosse facilita molto la trasmissione del virus. Professor Rezza, spero di essere stato chiaro. Sì. Quindi è chiaro che i sintomi facilitano, la presenza dei sintomi è fondamentale nel facilitare la trasmissione del virus. C'è Pietro, ma ci sono anche altri ascoltatori. Lui dice: chieda quanti sono guariti, a parte che non credo che lei possa sapere il numero preciso di quanti sono guariti, però sentivo che un medico cinese che ha seguito anche la SARS, la maggior parte, e questa è un'ottima notizia. Ma però pensiamo all'influenza, no? Noi diciamo c'è un certo numero di decessi per influenza, in genere sono persone più anziane e persone fragili, persone che hanno malattie croniche. Noi col vaccino ne proteggiamo, qua anche se fosse come un'influenza questo, non abbiamo il vaccino e quindi chiaramente un problema lo crea, specialmente quando c'è tutta una popolazione suscettibile che si può infettare. Persone più fragili. Senta, e ho quindi sentito... chiaramente c'è un ingolfamento anche delle strutture ospedaliere. Ho sentito che colpirebbe di più gli uomini e di età intorno ai 50 anni, è vero professore? O è una... Ma fra i casi, e soprattutto fra i casi più gravi, sì, c'è una questa differenza di genere che svantaggia gli uomini. E naturalmente l'età, insomma, l'età è un fattore fondamentale per la stragrande maggioranza delle malattie infettive, non solo. Più si è anziani, più si è a rischio, perché chiaramente si ha un fisico più debilitato e dopo c'è spesso la presenza di patologie croniche negli anziani. Alessandra chiede: ma il vaccino non viene creato con gli anticorpi creati dalle persone guarite? In realtà, fra l'altro, professore, mi scusi, no, leggevo che questo medico cinese che ha seguito anche l'epidemia della SARS diceva che in realtà anche le persone guarite sono in pericolo, ma non ho capito bene per quale motivo, perché gli anticorpi durano, dice, fino solo a un certo punto e poi di nuovo sono scoperti. Ma questo non lo so, sinceramente non ho sentito questa, non ho questa informazione, però mi sembra un po' prematuro dare questo tipo di informazione, anche perché le persone sono guarite e sono guarite da poco tempo, quindi sinceramente non credo ci sia un follow up sufficiente per dire questo. I vaccini non si fanno con gli anticorpi delle persone, quelli sono i sieri, diciamo. I sieri. Quelli che iniettati proteggono immediatamente, è come iniettare degli anticorpi, diciamo, nella persona. I vaccini invece sono delle sostanze che assomigliano piuttosto al virus e che provocano la formazione di anticorpi da parte dell'organismo, quindi e danno una immunità più duratura. Professor Rezza, ancora qualche minuto se sentiamo pugliese, poi le voglio fare un'altra domanda. Mi dica. Va bene. Allora chiedo al dottor Andrea Pugliese questa cosa. Adesso ci sono vari ricercatori in tutto il mondo che stanno costruendo dei modelli che permettano di capire quale potrebbe essere l'evoluzione dell'epidemia. Sul sito della rivista Nature, internazionale di grande prestigio, sono stati resi noti alcuni modelli che riguardano esclusivamente però la zona di Wuhan, che è appunto il focolaio di questa epidemia, dalla quale in dicembre è partito il virus, ed è emerso che l'epidemia potrebbe crescere fino a causare un numero di casi che va da un minimo di 39.000 a 190.000 casi. Lei, Pugliese, che idea si è fatto? Ma innanzitutto volevo dire ovviamente che non ho lavorato direttamente su questi dati, perché non ho notizie di prima mano, soltanto quello che ho un po' visto sulle riviste, niente sulle pagine web. Direi che in questo momento è molto difficile riuscire a dire anche a Wuhan quali potrebbero essere il numero dei casi, nel senso che ci sono tantissime cose in gioco e al momento tante cose non sono note. Per esempio, in una delle riviste uscite ieri sul New England Journal of Medicine, infatti, ricercatori cinesi, c'era una stima di quello che si chiama il numero di riproduzione, cioè quante persone in media sono infettate da un infetto. E le stime avevano una, diciamo, sì, la stima di media era circa 2, ma con una grossa incertezza. Un'incertezza che andava da 1,5 a 3,9, che quindi questo capite che fa una notevole differenza, per cui riuscire a fare previsioni su cosa succederà anche soltanto fra un mese in questo momento, direi, con i dati che ci sono, è molto difficile. Quello su cui possono aiutare i modelli a fare delle stime a breve termine e anche e soprattutto a capire quale deve essere lo sforzo che si deve fare per il contenimento. Anche perché, dottor Pugliese, c'è qualcuno che dice come si potrebbe immaginare un evolversi in un paese come l'India o un continente come l'Africa? Ma sente, questo chiaramente quanto è il contatto dipende dal contesto sociale, chiaramente dipende molto da come sono le cose. Chiaro che in un posto, quando arrivassi in India, è chiaro che probabilmente le condizioni per la diffusione sono almeno altrettanto buone quanto a Wuhan, se non... Professor Rezza, leviamo finalmente di torno questa fake news. Un ascoltatore dice: è vero che è stato prodotto questo virus in un centro militare cinese, in un laboratorio dai cinesi stessi? Sono le solite complottismi. È un po' difficile dimostrarlo. È un virus comunque molto simile a quello dei coronavirus di pipistrelli. È successo già con la SARS, insomma, che nei mercati di animali vivi dove si portano pipistrelli e vari animali anche selvatici ci fosse questo, si verificasse questo passaggio, diciamo passaggio di specie, no? Dall'animale all'uomo. Dopo il virus fa piccole mutazioni, magari gli permettono di adattarsi immediatamente all'uomo e passare da persona a persona, andare a scomodare laboratori biologici, eccessivo, virus dice, che non hanno antidoti e che quindi infettano la propria popolazione, perché sì, per un errore fuggirebbero dal laboratorio. Sembra una cosa veramente da fantascienza. Professor Rezza, per chiudere, dica una cosa che vuole assolutamente dire su questa emergenza nazionale, una cosa che si sente di dire agli ascoltatori, una cosa importante. No, vorrei dire che in questo momento noi non abbiamo una circolazione del coronavirus in Italia, quindi dobbiamo starcene tranquilli. Se ci cominciamo a impanicare adesso, è un po' veramente, non ne vale la pena. Quindi direi ai cittadini di stare calmi, soprattutto perché non sottovalutiamo il problema. Perché essendoci un grosso focolaio in Cina, certo noi non possiamo escludere che arrivino più persone in cui riscontriamo dopo l'infezione, la malattia. Però proprio per questo credo che dobbiamo tenere molto alto il livello di vigilanza. Credo come questi due casi sono stati gestiti, mi sembra apparentemente molto bene, in quanto ha funzionato tutto il meccanismo, 118, quindi sono arrivate persone, degli operatori sanitari completamente protetti, che hanno portato direttamente le due persone malate in isolamento ospedaliero senza farle passare per il pronto soccorso, dove c'è affollamento, no? E quindi possiamo stare tranquilli. Diciamo che la risposta c'è stata. L'Italia ha sempre mantenuto un livello molto alto. Molto alto. Certo, ecco, bisogna vincere la battaglia in Cina. Bene. Grazie professor Giovanni Rezza, grazie dottor Andrea Pugliese, grazie per la vostra collaborazione, il vostro intervento e il vostro lavoro. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Goodbye my darling. Goodbye my love. Goodbye my darling. Fumo di Londra, addio dell'Unione Europea, dice addio all'Unione Europea, dice Londra, e l'Unione Europea dice addio Londra, perché da mezzanotte, signore e signori, il Regno Unito sarà fuori dall'Unione Europea. Il primo ministro Johnson ha detto: è l'alba di una nuova era. E allora ci colleghiamo col nostro inviato Sergio Nava, che è a Calais, quindi sulla costa francese, in attesa domani di arrivare nella Gran Bretagna, ormai staccata dall'Unione Europea, attraverso la Manica, insieme all'autotrasportatore Michele Giordano, che casualmente si chiama Giordano ma non siamo parenti, autista della TN Torello Trasporti. Ciao Sergio. Berta. Ciao Sergio, ci sentiamo bene? Sì? Sì, io ti sento bene. Bene, Sergio, lì che atmosfera c'è a Calais? Che cosa dicono le persone? Sentono che sia un momento, una svolta epocale, il passato che si chiude alle spalle, le cose che cambiano? Che succede? Sì. Siamo nel centro di Calais, vicino al porto, tra l'altro atmosfera assolutamente tranquilla, insomma c'è solo il solito struscio serale, anche se fa un po' freddo, comunque molti inglesi chiaramente che sono di passaggio. Non c'è ovviamente grandissima emozione, tra virgolette, proprio perché non cambia nulla, almeno fino a dicembre, per quanto riguarda il flusso di merci e persone. Anzi, a livello economico qui sono anche abbastanza contenti per una cosa, e cioè il fatto che tornerà il duty free. E quindi si aspettano gli inglesi, vengono qui a comprare a prezzi ridotti, quindi un aumento di inglesi che vengono qui proprio a fare acquisti da quando poi tornerà il duty free. Poi ovviamente i possibili inconvenienti, i possibili ritardi che ci saranno a livello di porto dal gennaio 2021, beh, quella è un'altra storia, perché i negoziati tra Gran Bretagna e Unione Europea si annunciano molto complicati, quindi ovviamente c'è attesa. Per il momento insomma si vive questa Brexit come un momento storico, ma si sa che non cambia nulla, ma si guarda una certa un misto di preoccupazione e speranza al futuro, diciamo pure così. C'è allora l'autotrasportatore col quale Michele Giordano, buonasera. Buonasera a tutti. Si è comportato bene Sergio? È sicuro che lo vuole portare con sé in cabina domani? Attraverso sì, sì, sì, è stato sì. Gentilissimo. Molto gentile. Bene. Senta, lei è abituato, almeno finora ha fatto diverse volte quella tratta, è passato, ha preso il traghetto, no, sulla Manica, è passato dall'altra parte. E che cosa, che sensazione le fa? Che sentimenti ha in questo momento così importante, insomma, di questo cambio storico? Come diceva già Sergio prima, non vedo grandissimi cambiamenti. I problemi che ci sono oggi sono quelli che c'erano anche anni fa. Noi facciamo questa tratta frequentemente, quindi li viviamo da un bel po'. Credo che non cambi immediatamente domani niente. Magari l'anno prossimo sicuramente ci saranno dei cambiamenti, ma adesso ancora no. È un tipo di viaggio che lei fa volentieri, questo? Sì, sì, molto volentieri, sono appassionato degli UK, sì. Senta, i suoi ricordi più belli della Gran Bretagna, di questo attraversamento della Manica, quali sono? Sono che anni fa Calais era una zona tranquilla, dove anche per noi autisti era una zona di riposo, dove potevamo passeggiare all'interno di questa cittadina che comunque è carina, in modo tranquillo, mentre oggi è un posto caldo a causa degli immigrati, come tutti sapranno bene, quindi è chiaro che adesso dobbiamo adottare, come trasportatori, la Torello deve adottare delle misure di sicurezza abbastanza rigide. E invece quando approdava col traghetto in Gran Bretagna, qual era il sentimento, appunto i ricordi migliori che ha del fatto di arrivare a... Un sentimento europeo, diciamo, ci sentivamo europei. Adesso loro hanno fatto questa scelta di uscire dall'Europa e quindi adesso li vedremo, che ne so, come vediamo gli americani o come vediamo i russi. Un po' più distanti, insomma, si sente un po' straniero. Distanti, sì. Michele Giordano, io la ringrazio, ricordo che è autotrasportatore della TN Torello Trasporti, domani si porterà Sergio con sé sul traghetto, prima sul camion e poi sul traghetto per attraversare la Manica. Sergio, hai qualcosa da dichiarare prima di partire? Naturalmente siete sobri. Sì? Ovviamente no, dichiaro che tra poco più di ore la Gran Bretagna sarà un paese terzo, non dimentichiamolo. E dichiaro che domani alle 7:40 noi prenderemo questo traghetto verso Dover, da Calais. Speriamo che vada tutto bene, che non ci siano problemi di nessun tipo, che il mare sia calmo soprattutto, e poi sbarcheremo a Dover e soprattutto vi racconteremo, sia domani ma soprattutto nell'Euroreportage di domenica mattina alle 8:15, vi racconteremo questa prima attraversata della Gran Bretagna indipendente. Senti Sergio, poi vabbè, racconterei appunto le cose che cambiano, quindi partite domani presto. Se ti dovessero fermare, perché ti trovano magari insomma così un po' sospetto, visto che appunto la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea, facci sapere, chiamaci per tempo con un satellitare. Chiaramente. Bene? Grazie. Va bene. Grazie Sergio Nava, buon viaggio allora domani, buon approdo nella nuova Gran Bretagna della nuova era, come dice il primo ministro Johnson. C'è adesso la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano, e naturalmente siete al posto giusto perché così un giorno non potrete dire io questa non la sapevo. A proposito di una notizia importante, abbiamo appena parlato appunto del D-Day, a mezzanotte la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea, la Manica torna a essere un confine europeo fra il continente e l'isola, proprio questo confine che poi varcherà domani il nostro inviato Sergio Nava con l'autotrasportatore Michele Giordano. E poi alle 22, tra l'altro stasera, 22 ora italiana dovrebbe essere, c'è il discorso alla nazione del primo ministro britannico Johnson. Adesso però occupiamoci di cose diciamo più leggere con il calciomercato. Ci dovrebbe essere il nostro Giovanni Capuano in collegamento. Ciao Giovanni. Eccomi Roberta. Notizie Ciao. Dal calciomercato maschile, naturalmente, immagino. Sì. No? Sì, maschile, sì. Immagini bene. Calciomercato che si è chiuso nella sua sessione invernale 1:50 fa e si è chiuso con una giornata abbastanza frizzante in cui non sono mancati colpi di scena sotto forma di affari saltati quando sembravano chiusi. Allora, se sei d'accordo, io parto da quelli. Il colpo di scena più clamoroso di tutti è stato il salto della trattativa che doveva portare al Milan Robinson, esterno del Wigan, che è atterrato questa mattina a Milano, ha fatto le visite mediche, è andato in sede per firmare il contratto e lì si sono accorti che Milan e Wigan non erano completamente d'accordo sulle formule del pagamento. Alla fine Robinson è tornato a casa sua e il Milan ha preso negli ultimi minuti prima della chiusura degli uffici della Lega Calcio alle ore 20 l'Aksal dal Torino. Milan che oggi ha preso anche Saelemaekers dall'Anderlecht e con Ibrahimovic ha chiuso così il suo mercato. Poi l'altra storia che abbiamo raccontato nelle ultime giornate, nelle ultime ore, quella di Giroud, centravanti francese del Chelsea, piaceva all'Inter. Oggi la Lazio ha provato a fare il blitz mandando il direttore sportivo Tare a Londra, alla fine però Giroud è rimasto al Chelsea e soprattutto non si è innescato il giro degli attaccanti, perché per qualche ora si è parlato anche della possibilità che l'Inter prendesse dal Torino Zaza, alla fine anche qui non c'è stato l'accordo sulla formula. La Juventus ha venduto Emre Can, tedesco, al Borussia Dortmund, 1 milione prestito oneroso più 25 qualora scattasse il riscatto, che è condizionato da alcuni risultati del Borussia Dortmund. Juventus che poi ha ceduto anche Piazza in prestito all'Anderlecht. Oggi è stata la giornata della Fiorentina scatenata, Duncan, Igor, Agudelo, Kwame, Amrabat che arriverà a luglio, poi è andato Boateng in prestito al Besiktas, mentre è saltato l'acquisto di Criscito. Sempre a proposito di attaccanti, Spal e Cagliari si sono scambiati Cerri e Paloschi, e Isseri che è andato al Verona, così come Di Marco e Settini. Iago Falchi è andato al Genoa e poi c'è l'ultimo giallo, quello che è maturato oggi a metà pomeriggio. Gervinho, l'attaccante del Parma, uno dei giocatori più forti del Parma, si è scoperto che da qualche giorno non si presenta agli allenamenti perché sta forzando la mano per andare in Qatar, dove ha un'offerta di stipendio da 4,5 milioni di euro netti. Bene, per il mercato del Qatar abbiamo ancora 7 minuti per capire se alla fine Gervinho sarà riuscito nel suo intento, cioè quello di arrivare a rottura con il Parma per andarsi a prendere questo ricchissimo contratto in Qatar. Il Parma nel frattempo lo ha anche convocato per la partita del prossimo fine settimana, nel caso invece dovesse saltare tutto. Giovanni, per chiudere, qual è l'acquisto, lo scambio che più ti ha convinto e che ti ha fatto contento stasera? No, questo mercato è dominato da un acquisto, che è quello del danese Eriksen, che ha preso l'Inter dal Tottenham, ha speso 20 milioni di euro. Eriksen sarebbe andato in scadenza di contratto fra 6 mesi, ma l'Inter ha anticipato la concorrenza di tutti i grandi club europei per prendere quello che è stato in questi anni uno dei migliori centrocampisti della Premier League, ed è certamente un calciatore che sposta gli equilibri, quindi noi sappiamo che l'Inter è certamente più forte alla fine del mercato dell'Inter che è entrata nel mercato, sappiamo che molto probabilmente più vicina alla Juventus, non abbiamo idea, possiamo avere un'idea, un sospetto, se abbia colmato del tutto o no il gap rispetto alla Juventus. Ricordiamoci che c'è anche la Lazio, insomma, che sta facendo un grande campionato. La mia idea personalmente è che la Juventus resta la grande favorita di questo campionato, però è chiaro che prendendo Eriksen l'Inter ha alzato e non di poco l'asticella del suo livello. Grazie Giovanni Capuano. Ciao caro Giovanni. Grazie a te. Ciao Giovanni. Intanto vedo tanti vostri messaggi ancora sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Tra questi anche Marco, che dice: come uomo mi rattrista e mi umilia sentire notizie di femminicidio. Credo che le denunce abbiano poca efficacia. Merlo ha perso il becco, come farà a beccar? Merlo ha perso il becco, come farà? Allora, io direi che più che becco ha perso, si è persa proprio la merla, Paolo Corazzo di Trevi Meteo, cioè non si è vista da queste parti la merla, no, i giorni della merla, dov'è? Una vergogna questa, ma tu sarai contenta, ma davvero imbarazzanti le temperature che stiamo registrando, altro che i giorni della merla. Tu figurati che domenica sarebbe il dì della candelora e dell'inverno, siamo fora, ma quale inverno in fin dei conti? E guarda, anche il weekend che ci aspetta sarà l'insegna di temperature sopra la norma, soprattutto domenica, perché domani sarà una giornata piuttosto nuvolosa in Italia, quindi magari non farà caldissimo, temperature comunque che toccheranno i 10 gradi al nord, 12 al centro e 15 al sud anche domani, ma domenica si viaggia verso i 15 gradi in tutta Italia, addirittura al sud li supereremo, e lunedì massimi fino anche a 20 gradi da nord a sud, quindi altro che merla. Però, però ecco, ti anticipo, non che è migrata, non è che è migrata verso i paesi caldi, davvero, davvero. Non si capisce più niente. Resta il fatto che però settimana prossima, da mercoledì, avremo l'arrivo di aria un po' più freddina, quindi ci sarà un calo delle temperature in settimana, ci riportiamo nella norma, nulla di eccezionale, tra l'altro un calo che durerà pochi giorni, però ecco, l'inverno in realtà non è finito, anche se chiamarlo inverno davvero quest'anno è un po' fuori misura, secondo tra me. Tra l'altro, ecco, questa leggenda della merla, dei giorni della merla, no? Si diceva che era una merla che aveva avuto, poi sono diverse le leggende, talmente freddo che si era rifugiata in un camino ed era diventata nera. Non è che si trattava forse di un merlo maschio, perché i merli sono neri, le merle sono marroncine, non sono neri. Ah, guarda che precisione, davvero, fatto sta che siano bianchi un paio in passato, gli uni o gli altri, ho qualche dubbio, ecco, però è simpatica la storiella in ogni caso, a mio parere. Senti, invece la talpa americana quand'è che fa sapere se la primavera sarà? Ci siamo, perché il 2 di febbraio, il nostro dì della Candelora, lì fanno uscire la marmotta, è vero, la marmotta, ecco, le talpe se ne stanno sotto, insomma, sì. Si ferma l'America per vedere che fa sta marmotta, mi fa ridere, ma certo non conta niente al lato pratico. Hai sentito Paolo che qualche giorno fa, così con un esperto, parlavo del fatto che l'Istituto Meteorologico Britannico dice che i prossimi 4 anni potrebbero essere i più caldi da 150 anni. Sì, guarda, non mi stupirebbe, perché il 2019 ad esempio è stato il più caldo di sempre in Europa e comunque il trend è quello, quindi questo riscaldamento globale è in atto e sarà difficile fermarlo, anche se noi ci fermassimo oggi dal produrre gas serra, quindi la situazione tenderà a peggiorare nei prossimi anni, alcuni ci vedono dei pro ma sono molto più contro, quindi davvero il futuro climatico della Terra è un gran punto di domanda e Paolo, ci sarebbe bisogno di intervenire. Un altro punto di domanda, a Londra che farà? Pioverà adesso, mo che si stacca dall'Europa, secondo me piove, grandina, che succede? Beh, guarda, avranno un mese di febbraio molto movimentato da quelle parti, ritornano le vere piogge inglesi, non farà freddo ma di acqua ne vedranno parecchie a febbraio. E se la vedranno certo, loro, con i loro ombrelli. Grazie. Grazie Paolo Corazzoni Trebebeto, buon tempo a te comunque sia. Ciao caro Paolo. Ci riaggiorniamo alle 22.